Il Comitato Supporto Legale è prima di tutto un collettivo, è sempre stato un collettivo di attivisti, quindi con una ben precisa, un ben preciso profilo sicuramente politico. Nasce al domani di Genova, nel senso che dopo Genova, quando cominciano ad aprirsi tutte il post, quindi tutte le vicende processuali, o comunque tutta la parte preparatoria che poi avrebbe portato ai processi, tutte le indagini sia sui manifestanti che soprattutto sui manifestanti e sui fatti di strada, che però anche sulle forze dell'ordine, all'interno insomma delle note vicende avvenute alla Diaz a Bolzaneto, accade che quella che allora era veramente una delle più grandi fucine di sperimentazione di comunicazione sociale, che era Indymedia, per chi è molto giovane non aveva nulla a che fare con quelli che sono gli attuali social, neanche quelli che vengono poi utilizzati in maniera egregia da tante persone che fanno tante piccole rivoluzioni in giro per il mondo, ma non aveva nulla a che fare perché era una struttura mondiale ma non commerciale, assolutamente tenuta in piedi solo ed esclusivamente da attivisti, e quindi aveva chiaramente uno scopo completamente diverso. Indymedia si pone come interlocutore della segreteria legale, che era quella che seguiva i team di avvocati che, oltre a essere nelle strade durante le giornate di Genova, si erano poi ritrovati anche a doversi a reggere sulle proprie spalle appunto tutto il post che aveva purtroppo molto a che fare con le aule di giustizia. Dopo alcune vicissitudini e un lavoro che a un certo punto si era capito che non poteva essere gestito negli stessi modi assolutamente assembleari con cui si gestiva Indymedia a quei tempi, si è deciso di creare una costola di Indymedia, che era appunto il collettivo Supporto Legale, con un sito che è supportolegale.org, tuttora funzionante, che era in qualche modo un pool di attivisti assolutamente concentrati su questo pezzo di storia, questo pezzo di comunicazione, da molti punti di vista, da quello appunto della comunicazione, perché questo collettivo ha seguito tutti i processi e negli anni ha fatto in modo che sulla stampa è diventato davvero un punto di riferimento anche per la stampa mainstream, perché ci fosse una voce non esclusivamente della procura, diciamo così, su quello che stava accadendo. È stato un collettivo che si è molto concentrato, e questo in particolare forse è il lavoro che ho seguito più io personalmente, su una parte fondamentale di raccolta fondi per portare avanti questi processi, è anche stato quello, altra parte ancora più fondamentale, quello dove si sono pescati i vari consulenti legali che hanno affiancato appunto i team anche dentro le aule e dentro tutto l'immane lavoro di selezione, verifica e utilizzo dei video e del materiale fotografico che la procura aveva messo in ballo dopo anche le vicende di sequestri di materiale anche e soprattutto a Bologna, all'interno di quello che era allora l'allora TPO. Il collettivo quindi, diciamo, nasce così com'è tuttora, nella sua forma tuttora esistente, nel 2003, e va avanti fino ad oggi, o meglio va avanti a fare tutto questo lavoro fino al terzo grado di giudizio di quelli che sono i processi per i fatti di strada, dove erano imputate più di 20 persone c'erano tutta una serie di processi, però quelle con le imputazioni più pesanti, che erano devastazione e saccheggio, erano più o meno una ventina, e alla fine del terzo grado di giudizio, cioè della Cassazione, queste 20 persone vengono condannate con vari livelli, diciamo, a davvero tanti anni di galera complessivi. Parliamo più di un secolo di galera complessivo, perché l'accusa era stata quella di devastazione e saccheggio, cioè un reato nato sostanzialmente in periodo, insomma, storia veramente della prima parte del Novecento, mantenuto per situazioni di sciacallaggio, nato nel periodo fascista, mantenuto per situazioni di sciacallaggio, ma assolutamente non, a nostro parere, consono per quello che era successo nelle strade di Genova, soprattutto per la situazione veramente di guerriglia portata avanti dalle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti, molto più che il contrario, e invece utilizzato per creare quello che è stato in qualche modo un, come dire, un passo, un cambiamento di passo in quelle che erano le accuse per situazioni di strada di questo tipo, che hanno poi portato al riutilizzo di questo tipo di reato anche in molte altre situazioni e a un inasprimento del livello repressivo e soprattutto del livello di punizione poi appunto nelle aule dei tribunali per i manifestanti, che da Genova ha davvero cambiato registro, diciamo così. E questo per noi era molto chiaro, purtroppo lo temevamo molto e infatti è puntualmente accaduto. Noi siamo andati quindi avanti fino alla Cassazione, e alla Cassazione chiaramente il nostro lavoro è finito perché i processi erano finiti. Nel momento in cui però, anzi, il nostro lavoro in realtà si è interrotto quando c'è stato il processo di secondo grado, cioè l'appello, perché poi la Cassazione era una fase talmente tecnica che noi sostanzialmente non servivamo più. Nel momento in cui però, dopo la Cassazione, una discreta, come dire, manipolo di persone sono effettivamente finite in carcere, quindi con condanne che si aggiravano su 10 anni di galera o comunque che stavano ben sopra i 4 anni, che avrebbero potuto garantirgli in qualche modo delle pene alternative, eccetera, noi ci siamo sentiti di doverci rimettere in campo proprio per questi, che erano quelli che stavano pagando sulla propria pelle e nella propria vita quella che era stata in qualche modo una storia collettiva e che ci apparteneva e che apparteneva a nostro parere a tutti. Quindi abbiamo deciso che il nostro lavoro, che non era più quello di affiancare gli avvocati, doveva però diventare quello di sostenere economicamente queste persone, perché molto semplicemente stare in carcere senza unghello è molto diverso che stare in carcere con un minimo di sostegno che ti permette di mangiare quello che ti piace, di fumare, di come dire, avere quel minimo di vita che chiaramente dipende da quello che ti puoi o non ti puoi comprare. Questo per noi era davvero molto importante. Quindi abbiamo cominciato a fare un lavoro di ancora una volta di raccolta fondi volto assolutamente a questo genere di impegno. Nello stesso tempo era l'unica cosa che ci sentivamo di poter fare, perché noi abbiamo sempre avuto come scopo assolutamente chiaro e scritto in grande in qualche modo sul nostro sito di utilizzare tutti i soldi che ci fossero arrivati nelle mani o per i processi o per il sostegno di chi appunto era finito in carcere, e quindi non ci è neanche passato per la testa di poter usare quello che ancora avevamo per altre cose. E quindi alla fine eccoci qua, nel senso che in ormai 15 anni di storia e di vita chiaramente non siamo stati gli unici a interessarci di questa vicenda e di questo pezzo di storia che è Genova, ma tantissime persone l'hanno fatto insieme a noi, sia mandando semplicemente dei soldi, ma anche tantissime persone invece mandandoci delle loro opere, appunto delle tavole piuttosto che delle canzoni, piuttosto che molto altro materiale che si è legato nel tempo a diverse iniziative culturali e di comunicazione che noi avevamo messo in ballo. Abbiamo fatto dei CD, abbiamo fatto un fumetto, abbiamo fatto tante cose nel tempo, e questa sicuramente c'era un patrimonio, diciamo così, ci siamo ritrovati con un patrimonio di cose molto belle che ci sono state regalate, alcune delle quali sono decisamente da poter mettere nuovamente a giro, diciamo così, per ottenere ancora una volta lo scopo per il quale ci sono state donate. E di conseguenza abbiamo pensato che in particolare per la parte diciamo così, legata all'arte visiva, la cosa migliore era ancora una volta fare una mostra, un'asta, una mostra mercato, e quindi abbiamo deciso di farla a Bologna, che in qualche modo riporta anche alle origini di un pezzo della nostra storia, perché appunto purtroppo Bologna ha avuto una valenza negativa, ma abbastanza, come dire, presente in tutta questa vicenda. E credo in questo senso di aver fatto un po' il sunto, diciamo così, di questi 15 anni.